in onda Rock Revolution. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancati. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi amici spettatori. Spettatori, perché aspettate, no? Buonasera, bentrovati nuovamente su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede anche questo venerdì sera. Insomma, come sapete, siamo pronti all'attacco per vivere assieme a voi queste tre ore di musica inedita, di rock, di informazioni, di curiosità, di comicità anche, sì, perché insomma, sapete, c'è la rubrica News of the Week con gli amici Pablo e Francis, che ogni settimana ci tengono compagnia con le notizie più strane dal web. Ho avuto un'anticipazione, stasera ci sarà parecchio da ridere, insomma, ve lo dico subito. Prima di ricordarvi tutti i contenuti di questa sera, volevo subito salutare Simone Brancato. Buonasera Simone. Buonasera, ciao Filippo, ciao a tutti. Freddino, come va ancora a freddore? Un po' meglio. Ma la senti la voce gutturale. Effettivamente, anche non ho fatto un corso di dizione, ma proprio è l'influenza. Decisamente anche io, sento il naso un po' chiuso, però purtroppo, insomma, in questi giorni si sa, sono giorni di freddo, di pioggia, e quindi inevitabilmente, insomma, c'è un riscontro anche nel fisico. Saluto anche la nostra redazione, Ida Parlavecchio. Buonasera Ida, ben trovata anche a te. Tutto pronto, ovviamente, nostre community su Facebook, su Twitter, su Google+, su YouTube, poi potete trovare tutti quanti i video. Per quanto riguarda Facebook, nel caso specifico potete cercarci redazione Rock Revolution Redazione, oppure CRMP Radio, da lì potete poi comunicare con noi, oltre a guardarci in audio, in video streaming, dal nostro sito rockrevolution.it o dal sito della nostra emittente crmepiradio.it. Quindi se vi collegate, siete su internet a chattare su Facebook, potete cogliere l'occasione per ascoltare un po' di musica rock. Tra l'altro stasera avremo, come di consueto, due interviste con due artisti, un gruppo di artisti siciliani e l'altro non so di dove esattamente in questo momento, però vi prometto, vi giuro solennemente, ve lo farò sapere. Ovviamente non mancheranno le tante rubriche che riempiono il nostro programma, ovvero il Rock for You, la rubrica ormai intramontabile di Rock Revolution, i quattro successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Questa settimana ascolteremo quattro canzoni fantastiche, come sempre. D'altra parte, gli Aerosmith, gli Oasis, i Blur e i Cranberries. Poi andremo tutti quanti al cinema per ascoltare due colonne sonore, ovviamente virtualmente andremo al cinema, non è che nel pezzo vi mettete giù botto e partite. Due film molto particolari, però non voglio svelarvi nulla questa settimana, sono molto particolari. Invece vi anticipo quello che sarà il contenuto di Rock Revolution Live, l'emozione di assistere al più bel concerto della vostra vita. Quindi ascolteremo due canzoni in versione dal vivo e ascolteremo gli ACDC con Shoot to Thrill Live Special Collector Edition, una edizione particolare con un CD, con un live registrato fantastico, che ascolteremo stasera, e i Queen Live at Wembley del 1986 con One Vision, una canzone molto visionaria, ecco, scusate il gioco di parole. Poi ancora ci metteremo in collegamento con Palermo con il nostro giornalista corrispondente Francesco Quartararo per conoscere tutti quelli che sono gli eventi più interessanti della settimana, e quindi parleremo anche con lui. Spazio alla musica italiana ancora con Italians Do Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata questa settimana, due band abbastanza diverse l'una dall'altra, sono i Vallanzasca e i Litfiba, che presenteranno questa settimana una canzone che, insomma, è stato il loro inno alla riunione. Stiamo parlando ovviamente di Sole Nero. Ancora lo spazio ai grandi classici del rock, non mancano mai i cosiddetti evergreen, quelli insomma che piace poi ballare nelle feste, e ascolteremo due grandissimi interpreti, forse i più importanti interpreti della musica rock and roll degli anni 50-60. Parliamo di Little Richard e di Chuck Berry, rispettivamente, con due canzoni del 55 e del 57. Poi ancora, mica finita, continua. I due brani in sequenza, le varie sequenze che vi proponiamo questa settimana, ascolteremo i Metallica, Guns N' Roses, Airborne, Offspring, Scorpions, Nickelback, Skunk Anansie, Linea 77, insomma davvero tantissimo materiale per questa nuova puntata. Ovviamente ci fa piacere se ci terrete compagnia e interagirete con noi al 335 56 37 251, oppure direttamente dal nostro sito rockrevolution.it. Bene, inizia la puntata di Rock Revolution, allacciate le cinture e rock and roll. Rock Revolution su CRM Happy Radio. Going all night long, tough to put the brakes on. Doesn't matter when you'd rather get up and go out. It's time for Rock Revolution. '77, questo era Il Mostro, primo singolo estratto dall'album Horror Vacui dell'Linea 77, gruppo metal, new metal italiano, formato nel 93 a Venaria Reale, paese in provincia di Torino che io onestamente non conoscevo, che tra l'altro sono stati ospiti di Rock Revolution lo scorso anno. La loro musica è fortemente influenzata da quella di famosi gruppi americani come i Deftones, Rage Against the Machine, Helmet e con tanti altri. Insomma, comunque è una bella musica, molto tosta. Io tra l'altro anche ho visto un concerto loro a Milano, veramente energia allo stato puro. Allora, dipende, questa sera ne ascolteremo tante, anche inedite. Infatti più tardi ci metteremo in collegamento, pensate un po', con l'Argentina in diretta per conoscere un artista rocker argentino molto molto bravo. Lui è Saul Leroc e quindi conosceremo questo suo progetto musicale molto interessante. C'è anche un video che ho guardato che vi consiglio di andare a guardare poi su internet. Mentre in studio avremo da Palermo i Nergal, quindi conosceremo questa formazione che tra l'altro credo abbia fatto anche parte del Monreale Festival, un festival molto importante che c'è a Monreale. Comunque poi lo chiederemo direttamente a lui. Adesso continuiamo con la musica, arriva la bellissima Pantera Nera, Skunk Nancy con Over the Love. Rock Revolution, grande rock. Era Skunk Nancy su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Tra l'altro in questi giorni siamo impegnati anche a trasmettere quello che accade alla Fiera Internazionale del Turismo a Milano, la BIT. Infatti il nostro comune partecipa con uno stand davvero molto bello per promuovere il nostro territorio, un'iniziativa lodevole da parte dell'amministrazione comunale. Quindi potrete seguire in questi giorni su CRMP Radio sia 2 ore del mattino che 2 ore del pomeriggio le dirette direttamente dalla BIT per conoscere insomma un po' le novità del mercato turistico. Continuiamo con la musica, adesso fra pochissimo ci metteremo in collegamento. Ah, lo facciamo subito, benissimo. Facciamo subito allora il collegamento con il nostro corrispondente Francesco Quartararo per conoscere quelle che sono le novità di questa settimana per quanto riguarda feste, concerti, insomma, mode, anche tendenze nella nostra bella Sicilia. Allora, siamo pronti per il collegamento? Vai! Rock Revolution Net. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata, Palermo. Point to point stabilito. Bene, siamo in collegamento quindi con Francesco Quartararo. Caro Francesco, buonasera e bentornato a Rock Revolution. Buonasera a tutti. Come la va? che c'è Sanremo in questi giorni e che il tuo preferito è Simone Cristi. Ah, guarda, no, che parlate. Ti racconto una cosa da ri. Praticamente ieri sera, no, io non sono molto, come dire, portato alla visione di queste trasmissioni, perché sembrano un po' preparate, un po' organizzate, forse troppo. Quindi cerco di evitare di guardare. Però ho detto, beh, faccio radio, devo guardare, devo tenermi informato assolutamente. Allora guarderò questa sera Sanremo. Mi collego, guardo la televisione, accendo la TV e c'è Simone Cristicchi che canta la prima volta che sono morto. Ci ho detto, mamma mia. Ma era la serata, guarda, perché poi la stessa sera mi pare che Modà hanno rincarato la dose. Infatti, proprio una serata allegra da toccarsi praticamente continuamente. Comunque, che ne pensi? Ecco, volevo chiederti, ecco, perché sei allora, anche un opinionista. In settimana abbiamo trovato un collaboratore che si è sacrificato, insomma, anche lui ha ascoltato i Big in gara e ha lasciato i suoi pareri. Ho messo anche nella pagina Facebook il Rock Revolution, chi vuole poi li va a leggere. Volentieri. Che ti devo dire? Elio e le Storie Tese non hanno presentato nulla che il pubblico non conoscesse già. Mm-hmm. Mi spiego. Elio e le Storie Tese fanno questo tipo di musica da 15 se non 20 anni ormai, quindi chi li conosce sa che tipo di brani propongono normalmente. Ti dirò di più, il primo brano, quello che non è entrato in gara, era ancora più divertente della canzone Mononota, però forse nella settimana della dimissione del Papa presentarsi ai cardinali e parlare di siamo tutti dannati e destinati all'inferno magari non era la scelta più azzeccata, però dai, ci hanno provato. E il resto, che ti devo dire? Quale artista ti è piaciuto di più? Dai, sparala! Sui giovani ti dirò Blastema, dai. Blastema che tra l'altro abbiamo intervistato noi, credo due anni fa, hai prima visto, di arrivare. Che casualità! Quindi Rock Revolution confermato, porta bene. Eh sì, porta bene. Poi anche la giornata di ieri, devo dire la verità, i gruppi e i giovani che si sono esibiti erano molto interessanti. Senti, di Marta sui tubi che ne pensi? Li hai ascoltati? E allora, Marta sui tubi, intanto il pubblico è rimasto scioccato perché non c'era nessuna donna. Tutti sono chiesti, ma Marta dov'è? Dov'è Marta? C'erano solo i tubi, praticamente. Però vabbè, dai, fa piacere vedere ogni tanto un po' di musica di qualità sul palco di Sanremo. Sì, è un genere particolare, non lo scopriamo certo oggi, non lo scoprono gli ascoltatori di Rock Revolution, nemmeno noi che alla fine li conosciamo perché sono locali tutto sommato. Certo. Sì, ci vuole, ogni tanto ci vuole. E senti, invece della coppia, la coppia Fazio Littizzetto? Ecco, Fazio Littizzetto, vabbè, tu parlavi di cose preparate che si fanno notare, loro le fanno notare tutte. Poi vabbè, era di Pizzetto, per carità, comica eccezionale, però le prime serate, come mi ha suggerito pure il collaboratore che ha scritto la sua su Sanremo, aveva la grazia di una lavandaia. Pazienza, piano piano si va. Abbiamo visto anche ballare e cantare, sì, insomma, olè, alla grande. Il ballo lasciamo perdere, invece ha fatto scalpore quando si è presentato con un abito che evidenziava le sue forme, ha detto, è anche una donna lì. Tra l'altro il dialogo di ieri sera credo che andrebbe fatto studiare nelle scuole a molte donne e infatti, anche ai maschietti. Infatti, sono assolutamente d'accordo, le donne non vanno sfiorate neanche con un fiore, questo è importante dirlo e lo ribadiamo anche noi. Senti, invece, per quanto riguarda quindi Sanremo, comunque un giudizio da 1 a 10 finora? Ti senti di sbilanciarti? 6 e mezzo, va bene. Quindi stasera comunque ci saranno gli artisti che proporranno, sì, ci sarà la finale degli artisti, diciamo, emergenti. E domani sera poi ci sarà invece il revival, diciamo così, la serata finale con i Big e le canzoni che hanno fatto la storia, poi alcune canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Quindi domani serata scoppiettante, perlomeno. Insomma, sì, però. Anche se poi alla fine sul palco qualcosa da prendere, cioè, dai, non siamo così cattivi. C'è Rafael Gualazzi che è stata una bellissima canzone, Malika Ayan che ha sempre il suo stile, il suo tocco. L'ho vista molto molto ansiosa questa edizione del Festival di Sanremo, era lì che respirava affannata, proprio quasi un momento di panico quando è salito sul palco. Io lancio invece una petizione per Marco Mengoni. Lo sapevo dia, che qualcuno dia, no, qualcuno dia a questo ragazzo una band tosta, gli dia una rock band alle spalle, perché non sentire una voce del genere sprecata per canzoni così sinceramente fa male al cuore. È vero. Nel senso che, per carità, anche il pop ha le sue punte di eccellenza. Penso ad esempio a Bruno Mars in questo periodo, ma con una voce come quella di Marco Mengoni anche la qualità delle canzoni, anche pop volendo, dovrebbe essere maggiore. Qua certo, invece siamo a uno schema ripetitivo che però col televoto viene premiato. Infatti è arrivato primo nella classifica ieri sera, terza poi Annalisa, questa ragazza che ha partecipato ad Amici, quindi si conferma, sì, questa Annalisa trasmissione. Tra l'altro comunque ha un testo stranissimo, io ti... cioè, mi ha fatto estremamente ridere quello che ha scritto il nostro collaboratore, che è stato costretto a dare i suoi giudizi sui cantanti di Sanremo. Ha detto che ha una canzone ripetitiva, se ascoltata al contrario ti invita a farla diventare un tormentone. Ah, pensavo avesse qualche messaggio nascosto come le canzoni dei Queen. Ma in realtà è questo, cioè, tra l'altro nella sua canzone lo dice pure, cioè tu mi ascolterai e ti piacerà sempre più questa canzone, quindi alla faccia del brano spontaneo. Certo, va bene, senti, allora invece parliamo di cosa nostra, nel senso bello della parola ovviamente. Allora, cosa accade a Palermo in questo fine settimana, Palermo dintorni? Ieri festa degli innamorati, oggi festa dei single e oltre. Nel senso che tutti gli appuntamenti che trovate oggi su Filiotate sono per la maggior parte dedicati ai single e a chi... ieri insomma possiamo dirlo rosicava un pochino. Ah, una bella rivincita per i single, quindi. Oppure chi ieri ha festeggiato, ha speso una cifra, non è rimasto soddisfatto e oggi si vuole rifare. Oppure chi ieri era fidanzato, ha festeggiato San Valentino, oggi è stato lasciato e lo festeggia, esatto, da single, esatto. Oppure anche chi ha festeggiato San Valentino con la prima o con il primo ragazzo fidanzato e quindi ha bisogno di un una seconda giornata per festeggiare al meglio o accontentare gli altri partner. Certo. Ma facciamola breve, oggi è la festa dei single, dai, è il 15, ci sono una serie di serate un po' in tutta la città. Beh, tutte le scuse sono buone per poter far festa, mi sembra di capire. Eh sì, tra l'altro settimana pienissima, fino a martedì, anzi dal sabato scorso fino a martedì festa di carnevale, qualcuno anche di mercoledì perché... appunto il locale così pieno che ho voluto replicare, e poi subito dopo attacco San Valentino e festa dei singoli, quindi direi che a Palermo da lunedì fino a domenica i locali sono rimasti pressoché sempre aperti e sempre con tantissime feste. Bene, questa è una cosa positiva, insomma facciamo girare l'economia. Esatto. Che ti devo dire? Bene, ti possiamo vedere e ascoltare anche su Stereotape, il nostro bel playerino. Infatti, da questo gentilmente girato. Abbiamo lanciato anche una piattaforma in cui è racchiuso non solo Stereotape, ma tante altre cose. Bene, quindi dovremo vedere pian piano. Bene, allora ci terremo aggiornati anche riguardo questa cosa, che Filotate insomma in settimana porta delle novità sempre molto interessanti, questo ci fa tanto piacere. E ti annuncio un'altra cosina così volante, sta arrivando anche la stagione dei contest. Infatti. Nel senso che oltre il Versus School Contest di cui ti accennavo la scorsa settimana è arrivato il Jolly Roger molto in stile pirata e altri due o tre che si stanno organizzando nella zona di Piazza Borsa e qualcun altro verrà fuori pian piano. Bene, ci terremo aggiornati, insomma sicuramente avrai da fare in questa settimana e prossimamente, che sappiamo insomma tu vai sempre in giro, informi sulle novità musicali, quindi ci dovremo assolutamente aggiornare la prossima settimana per conoscere le novità del mercato musicale. Assolutamente sì. Va bene Francesco, un abbraccio, buona settimana, buon divertimento, alla prossima. Alla prossima e buon rock. Buon rock sempre. Anche a te caro, ciao. Va bene, allora adesso dopo aver parlato con Francesco, intanto vi ricordo ovviamente che se volete potete andare sul nostro sito rockrevolution.it, da lì trovate un banner per poi cliccare sul sito Filiotate, che è il sito che vi dà la possibilità di conoscere tutti quelli che sono gli eventi più interessanti del fine settimana a Palermo e dintorni, quindi cercatelo sul nostro sito oppure potete tranquillamente andare su Google e cercare Filiotate, scritto Filiotate, per aggiornarvi anche con il vostro iPhone. Va bene, adesso arriva la new release di questa settimana. Rock and roll with Rock Revolution. Rock my life. Turn up the power. Turn up the power. Turn up the power. Turn up the power. new release. Revolution, grande rock. Ci siete andati giù duri, gente. E io sono fiero di ognuno di voi, anche del più negato. Quindi cerchiamo solo di mettercela tutta. Magari ci sbatteremo la faccia. Ma anche ammesso, l'avremo sbattuta con dignità. Con una chitarra nella mano e il rock nei nostri cuori. E come dicono gli ACDC, la nostra chitarra anche stasera morirà. E a chi sta per fare il rock, io rendo un occhio. Questi erano i due brani in sequenza in diretta su CRM Happy Radio anche questa sera, Rock Revolution dalle 21 a mezzanotte. Diciamo ascoltare un po' di musica rock, diciamo conoscere le realtà musicali emergenti. Questa sera avremo con noi Nergal e dall'Argentina questa sera un artista molto interessante, lui è Paul Le Rock, quindi vediamo di metterci immediatamente in collegamento in diretta con l'Argentina. Allora, hello Paul. Ciao Paul. Welcome to Rock Revolution. Non so se parlare in inglese o in italiano. It's better for us to speak English. Okay. So welcome to Rock Revolution, and let's start with the presentation of your project. We know, we would like to ask you when and how you decided to start playing, and when was born the passion for music. This was born around like 10 years ago when I was I started singing songs and guitar, and well, I'm playing around in different places. Ok, allora abbiamo qualche problema. We got some problem with the connection, internet connection. Abbiamo qualche problema con la connessione internet. Quindi volevo chiedere alla nostra regia come comportarci in questo modo, se possiamo provare a rifare un nuovo collegamento. Sì, Ok, facciamo una canzone, capirete insomma è un collegamento abbastanza distante, che siamo in collegamento con l'Argentina, c'è un piccolo problema di collegamento di internet, quindi vediamo di ristabilire il collegamento. Nel frattempo andiamo ad ascoltare una bella canzone, anzi due canzoni in sequenza, la nostra rubrica dedicata a grandi successi della musica rock and roll con I Love Rock and Roll. Back to the past with the Rock Revolution. Rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, on route. To the booty, on route. To the booty, on route. To the booty, on route. To the booty, on route. Wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows. Yes, indeed, but you don't know what you do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop. What you do to me, to the booty? Music from head to toe. deliver me from the days of old. Long live rock and roll, the beat of the drums loud and bold. Rock Revolution. Nuovamente in diretta su CRMP Radio. Abbiamo avuto qualche problema tecnico per metterci in collegamento con l'Argentina in diretta per parlare con questo artista. Lui è Paul Rock. Adesso proviamo nuovamente a stabilire il collegamento per parlare e conoscere, insomma, questo artista davvero molto interessante. So, Paul. Paul? Non c'è Paul. Yeah. Oh, okay. Okay. Let's start again the interview. Welcome again to Rock Revolution. Thank you. Let's start with the presentation of your project. So, cominciamo le presentazioni con le presentazioni del tuo progetto. When and how did you decide to start playing? And when was born the passion for music? Quindi, quando hai deciso di cominciare a suonare e com'è nata la tua passione per la musica? Well, it started around like 10 years ago. I was 24, 25 years old. Now I'm 34. And well, I always liked rock music. And I was born in the 80s. And mm-hmm. I grew up with the hard rock bands from the US. And well, here in Argentina also, I had some influences with our current rock musicians. Yeah. And well, it was all kind of a mixed up, and the rock was born like 6-7 years ago, I could say. Ok, let me translate please. Allora, lui ha detto che praticamente da 10 anni ha iniziato a portare avanti questo suo progetto musicale, ha una base, una cultura musicale prevalentemente con le rock band storiche degli anni 80 degli Stati Uniti, ma anche influenze di artisti del suo paese, quindi argentini. So how can you define your music genre if you can? Well, it's a mix between all the influences that I had. It's like pop, there are pop songs, there are ballads for the romantic heart, and there are some punk songs also, and it's just like a mix between all those music genres. Ok, allora ha detto praticamente che nel suo, gli ho chiesto quale genere musicale, in quale genere musicale lui si riesce ad inserire, ha detto che generalmente è pop music, però comunque con un cuore rock, e anche con le sue canzoni sono ricche anche di contenuti romantici come nelle ballate che lui propone. I would like to ask you, what kind of music do you listen to? We know that you have listened to rock bands, famous rock bands of 80 years. Did you have a preferred singer or band? Sappiamo insomma che lui ama molto gli artisti degli anni 80 e gli ho chiesto quale tipo di musica ascolta con piacere, se c'è un artista o un cantante preferito. No, I don't have like a favorite band. I listen to different genres of music, from I don't know, from classical music or pop music, and well, it's like, since I'm a composer and I like to compose, I like melodies, so whenever a melody is good, whatever genre it is, I like it. Ok, yeah. Allora ha detto praticamente che non ha un genere, non è legato in modo particolare ad un unico genere musicale. Il suo gusto spazia dalla musica classica al rock, comunque tutto ciò che è melodia a lui piace, quindi fa parte della sua poi musica anche. Sappiamo che ti esibisci con tre diverse band e proponi tre stili diversi. Quali tra questi senti più tuo? We know you are playing with three different bands, three different music styles. What style do you prefer, or do you enjoy playing most? Well, I will have to say that rock, because it's in my heart. It's growing year after year inside my heart, and it's what I prefer the most. Ok, ha detto che praticamente per il rock è la principale, quella con cui fa rock, perché il rock è la cosa che sente di più, è più sua. We would like to ask you also, how many songs do you have in your repertoire? Quanti brani hai nel tuo repertorio? Well, there are some 15 or 16 recorded songs. There are like 30 more that are not still recorded, and there are like another 30 more that I still have to finish, but I could say around 50. Ok, allora circa 50 canzoni più ne ha altre trentina circa che deve completare, di preparare. So, very, very many songs in only 10 years, no? Yes, I began writing when I first started studying a singing lesson at 24, and now I'm 34. Yes, it's been like 10 years, but I've been writing practically every week. Every time I have an idea, I try to write it down. Okay, so we see you on the webcam, and we see you with you dress a t-shirt, so there is hot in Argentina. It's pretty hot now. It's like 35 years. Wow. Like 35 degrees, which is like, I don't know, like 70. I don't know the conversion, but in Fahrenheit it's like 70 something, and it's pretty hot. But I have my friend here, the fan, that is giving me air, and I live in a top floor in a building, so it's pretty cool the air here. No, ha detto praticamente che c'è davvero tantissimo caldo in Argentina, sono circa 35 gradi, quindi insomma è piena estate. Da noi we have about 8-10 grades, come si dice gradi? Grades? Grades, yes. Yeah, circa 8-10 gradi here in Sicily. Do you know Sicily? No, I've never been to Italy, but I have some, how do you say, my mother's mother, so my grandmother from my mother is from Italy. Okay. L'ha detto che praticamente la sua bisnonna è di origini italiane. It's a great pleasure for us to have you here. We know that you are presenting your new video. The title of the video is Rock on the Top. It's a great video, and we would like to know about what are you working now and where you see yourself in the future. So, quindi su cosa stai lavorando attualmente e come ti vedi nel futuro. In questo momento, tra l'altro, nella nostra webcam stiamo guardando proprio il video di Rock on the Top. These days I'm just working with some company from the US that are making some video promotion of the Rock to the Top video clip, and also another company from the US as well that is doing some radio promotion. So it's just luckily the songs are starting to be known in different places, and just to gain airplay everywhere possible, no? Okay. Ha detto praticamente che in questo momento si sta dedicando quasi interamente alla traduzione, alla promozione del suo video, delle sue canzoni nelle radio anche negli Stati Uniti. Have you ever been in Italy? Sei stato mai in Italia? I've never been to Italy, no, but I know it from the movies. It's a beautiful place, and the city is Sicily, Rome, it's beautiful. Non è salutato purtroppo ancora in Italia, però spera di esserci. So we hope you could come as soon as possible. In Sicily is best. Okay, tomorrow I go. Okay, tomorrow. Not tomorrow. Tomorrow I can. Okay, we send you tickets, so we can hear you play music live. Abbiamo detto this is the best radio ever. Okay, Paul, it's a great pleasure for us. Thank you a lot, and goodbye. Thank you, Filippo. Grazie Paolo. Adesso andiamo ad ascoltare questa bellissima intervista. Prima di ascoltarla, volevo ricordarvi il suo sito internet, che è www.paulleroc.com.ar, è scritto paulleroc.com.ar. Da qui potete prendere maggiori informazioni e ascoltare la musica di questo amico argentino che fa rock davvero molto molto bello, Questa è la sua canzone, un videoclip molto bello che stiamo guardando anche nella nostra web TV, si intitola Rock to the Top. Rock to the top, from beginning to end, no matter what. say your last goodbye to someone that you're never gonna need. And why you hear it's all I know, but the message I'm trying to say, and that's the way I make you run right to the top. And I'll be running in a running of the hurricane round the top. Let me day after day run right to the top. From here to the end, no matter what they say, it's gonna be over here for longer and over again. Lui è Paul Rock, questo è Rock to the Top dall'Argentina con furore. Il rock, Rock Revolution. Bello, è bello, una bella intervista in Argentina. C'erano 35 gradi, noi stiamo soffrendo 8 gradi di freddo, però magari una bella spiaggia, Simone, fare un programma lì sotto qualche bella palma, mangiando una bella noce di cocco. E vabbè, l'inverno, insomma, è inverno, dobbiamo viverlo. Non è che possiamo stare sempre in estate, no? Allora, adesso andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone. Fra pochissimo avremo in studio con noi Nergal da Palermo. Conosceremo questa band, saranno tutti belli caldi, perché qui c'è una temperatura dentro lo studio effettivamente quasi come in Argentina. Vabbè, i Foo Fighters con Monkey Wrench. This is Rock Revolution. We'll be right back. alza le tue mani al cielo e venera il tuo rock. On Air, Rock Revolution. Bellissima cover della canzone Jimi Hendrix, Cocaine, fatta da Eric Clapton, un altro bravissimo chitarrista, cioè non come Jimi Hendrix, però insomma. Vabbè, allora adesso è giunto il momento di andare ad ascoltare il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Buona. Ogni venerdì alle 21, in diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. We'll be right back. living in La Vida, living it up when I'm going down. Rock for you, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Successi rock in sequenza, senza interruzioni. 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Questo era il Rock for You, 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Questa settimana abbiamo ascoltato gli Aerosmith con Love in an Elevator, una canzone, gruppo musicale Aerosmith, scritta da Steven Tyler e Joe Perry, è stata rilasciata come primo singolo del decimo album della band Pump. Nella versione originale, pensate un po', dell'album e nel video, la canzone è preceduta da un dialogo di 16 secondi dal titolo Going Down tra il cantante della band Steven Tyler e una donna impiegata di un grande magazzino, che dice: Second floor hardware, children's wear, ladies lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler, going down, seguito da una risata di Tyler. La traduzione la lasciamo a voi. Poi, seconda canzone del Rock for You erano gli Oasis con Don't Look Back in Anger, una canzone pubblicata come quarto singolo nel 1996 dall'album di maggior successo del gruppo, What's the Story, Morning Glory, del 1995. Diventò il secondo singolo del gruppo a raggiungere la vetta delle classifiche musicali nel Regno Unito, dove fu tra l'altro anche disco di platino. Terza canzone del Rock for You di questa settimana erano i Blur con Coffee and TV, singolo del gruppo Blur pubblicato nel 1999. La canzone compare nell'album 13 ed è stata pubblicata anche nella compilation del gruppo Blur The Best Of, che ho personalmente acquistato direttamente a Londra. Bellissimo disco. Il videoclip, tra l'altro, del brano è diretto da Garth Jennings e narra la storia di un contenitore del latte, non so se avete mai avuto la possibilità di guardarlo, che parte alla ricerca del chitarrista del gruppo Gunn Coxon, apparentemente scomparso di casa. Tra alcune prove da superare riuscirà a trovare il componente della band, Mister. Alla fine del video si scoprirà che in realtà il chitarrista è rinchiuso a provare la canzone, vedendo sul contenitore del latte la propria fotografia come persona scomparsa. Il chitarrista decide di tornare a casa per rincuorare i propri genitori. Che bravo. Quarta canzone e ultima del Rock for You di questa settimana erano i Cranberries con Zombie, brano più famoso sicuramente dei Cranberries, tratto dall'album No Need to Argue del 1994. Il testo di questa canzone sembra si ispiri alla situazione di violenza in cui ancora attraversa l'Irlanda del Nord nel 1993. In realtà, come affermò la stessa Dolores O'Riordan, Zombie fu scritta nello stesso periodo della bomba di Warrington in Gran Bretagna e non riguarda veramente l'Irlanda del Nord. Racconta di un bambino che è morto per colpa della situazione dell'Irlanda del Nord. Vabbè, questo era il Rock for You di questa settimana. Adesso, come anticipato, spazio alla musica emergente, intervista di questa settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Mi piace sempre questa sigla, la canterei dalla mattina alla sera proprio. Ladies and gentlemen, directly from Pioppo, in provincia di Palermo, in Nergal. Buonasera ragazzi, ci siete? Aspetta, mi è sembrato un po' moscio questo inizio dell'intervista. Ci siete? Sì! Oh, che bello! Allora, abbiamo il piacere di avere con noi quindi Nergal. Vi presento, abbiamo Fabio Buffa alla voce. Buonasera Fabio. Vi ricordo sempre di parlare vicino al microfono. Poi abbiamo Fausto Caravello alla chitarra solista. Ciao. Abbiamo Gabriele Volpetto alla chitarra ritmica. Buondì. Simone Di Patti alla batteria. Salve. E Saverio Scuderi, che purtroppo questa sera non è con noi, ma lo salutiamo. Ciao Fabio. Bene, bene. Allora ragazzi, benvenuti a Rock Revolution. Prego la regia di accendere anche il nostro cono gelato che potete far scorrere fra le vostre mani. Dunque, è una band del palermitano. Sappiamo che nascete nel 2000 come band thrash metal. Tra l'altro mi avete detto anche che la prima canzone che avete fatto era proprio quella che abbiamo ascoltato nel Rock for You, The Cranberries Zombie, vero? Sì, è stata una delle prime cover che abbiamo fatto, perché ai tempi c'era una cantante, una ragazza che cantava con noi. Proprio agli inizi, addirittura agli inizi. Io non suonavo con il gruppo. Allora, raccontateci un po' i passi evolutivi dei Nergal, come sono nati e come sono cambiati nel tempo, anche a livello di line-up. Quindi tu non c'eri, chi c'era in realtà all'inizio di tutto? Abbiamo cominciato con Fausto, il chitarrista solista, abbiamo cominciato io e lui alla chitarra e io alla batteria. Subito dopo si è unito Fabio, da prima alla chitarra, seguito da un altro ragazzo che suonava il basso, Alessandro. Subito dopo abbiamo cominciato a incidere, cominciare a comporre le prime canzoni, e Gabriele si occupava della scrittura dei testi. Subito ci è apparso chiaro che Gabriele doveva appartenere alla musica della band. Fin tanto che imparando da prima come semplice passatempo, diventando un professionista con la sua chitarra, abbiamo deciso tutti assieme di introdurlo nella musica del gruppo. Dei Nergal, bene, bene. E qua i complimenti si sprecano, sono un professionista. Bene, bene. No, già proprio quando siete arrivati si vede che c'è un bel feeling fra di voi, questo penso sia la base, no, di una convivenza musicale. Sì, nell'attesa infatti abbiamo fatto 3 ore a ridere, a prenderci in giro uno con l'altro. Noi nasciamo come gruppo di amici e abbiamo una passione comune, questa cosa. Anche perché un gruppo ha delle dinamiche, dei momenti di stanca, dei momenti in cui vai a 2000, fai tantissime cose. Ci tiene uniti il fatto di essere amici, è la cosa che ci ha permesso di superare tantissime cose. Come le distanze, come le distanze. Infatti c'è anche il vostro amico Savio che dice: a voi sembra che non ci sono sempre qui onnipresente, quindi mi sta seguendo anche su internet e lo salutiamo. C'è anche un altro messaggio da Rita che dice: forza Nergal, quindi forza da parte di Rita. Salutiamo anche Innis che vi saluta. Bene, allora intanto volevo cogliere l'occasione, visto che sono arrivati già i primi messaggi, per ricordare ai nostri ascoltatori che potete, se avete piacere, interagire con noi durante l'intervista, mandare dei saluti, fare dei complimenti, dei commenti alla band direttamente dal nostro sito www.rockrevolution.it. Allora, parliamo della vostra produzione. Sappiamo che avete prodotto in questi anni 3 demo CD e volevamo chiedervi quali sono le differenze che riscontrate fra questi lavori, se c'è qualcosa di invariato in questa evoluzione. Io prima volevo fare un collegamento alla domanda che ci hai posto prima riguardo alla lineup, perché sì. Ovviamente come in ogni band c'è quella fase di stanco in cui un po' si affievoliscono un po' gli entusiasmi e tutto quanto, e dobbiamo dire che per quanto ci sia stata quella fase noi dobbiamo ringraziare anche Saverio, che questa sera non è qui con noi, perché dal momento in cui è entrato a far parte della band come bassista ufficiale ha portato un po' quell'entusiasmo che mancava, l'energia vitale che c'era, sì, un po' mancata. Bene, bene. Vi siete uniti ancora di più, bene. Allora, direi subito di andare ad ascoltare la prima canzone, che si intitola Come Polvere. Quindi mi pare di intuire testo in italiano, sì, volutamente, sì, o per motivi magari non saprete, sì. Volutamente. Allora, ascoltiamo questa canzone e poi ne parliamo. Nergal, la Rock Revolution, presentano la loro musica. Questa è la prima canzone, si intitola Come Polvere. Il mio futuro è fermo lì in avaria, una valigia, un abisso da riempire, strade vuote e solo un'ombra su me, sempre lei compagna muta del mio viaggio. Polvere, maledetto ogni mio sbaglio di sia, sia maledetto l'eco dei ricordi. E adesso cammino da solo e creo sentieri che tu non vedrai, con ali sciolte al sole volo. Se guardo indietro più pesi, adesso affronto la via, scuoto la polvere a tempo coi miei passi e lascio andare tutta la forza che ho, lascio alle spalle tutte le mie scuse e quanti errori e quante scelte farò, questo è il prezzo e ne vale la pena. Mi passa un di vita, voglio vivere ogni mia giornata. E adesso cammino da solo e creo sentieri che tu non vedrai, Nerd alla Rock Revolution con Come Polvere, questa canzone davvero molto bella. Stavamo guardando il video proprio mentre ascoltavamo la canzone, un video in bianco e nero. Come mai la scelta del bianco e nero? La scelta del bianco e nero è stata una scelta di regia. Abbiamo questi video, sia questo che un altro video che può essere trovato su YouTube e lo vedremo penso fra poco, sono stati registrati da un regista romano, si chiama Evandro Mariucci. Mm-hmm. Avevamo un contratto, una coproduzione con un'etichetta produttore indipendente. Ecco, bravi, grazie. Con la Giro Records. Con la Giro Records di Roma. Abbiamo registrato questi video. La scelta del bianco e nero è stata sua e rappresentava un po' questo momento che diciamo poco fa della lineup, del cambiamento eccetera eccetera, ma la musica vince sempre e nella decisamente nostra vita non, la nostra vita vive di musica, ecco, è una voi cosa vivete fantastica. Di musica anche o fate le altre attività e lo fate come insomma noi come facciamo anche altre attività, per esempio io faccio il filosofo. Ah, un po' di musica. Cioè. No. Allora concluderemo con una breve alla fine della puntata. Ah, certo. Quindi preparati. È il mio destino ogni volta. È tu la frase. Ecco, la frase finale che concluderà l'intervista. Arrivano altri messaggi per voi. Marina dice: forza Nergal, il prossimo anno vi vogliamo a Sanremo. Che ne pensate di Sanremo in questi giorni, in questo momento? Insomma, c'è in onda in televisione Sanremo. Ci sono i Blastema, che è una band che noi abbiamo intervistato. Chissà che l'anno prossimo non ci siate voi. Noi è da un paio d'anni che ci proviamo effettivamente. Abbiamo tentato di questa avventura di Sanremo, ma diciamo la giuria era un po' particolare sia l'anno scorso, infatti ero anche il regolamento non prevedeva l'età, perché comunque era in fino a 29 anni. Fino a 29 anni si poteva partecipare. Sì. Noi voi avete più o meno facciamo io una media? Una media 29 anni. Però Gabriele è un però, po'. Sapete perché non siete passati? Perché non eravate stati a Rock Revolution. Da adesso tutto cambierà. Ve lo posso garantire. Speriamo ci porti fortuna. Una cosa, noi a Sanremo comunque siamo andati due volte a Sanremo Giovani. Una volta siamo stati semifinalisti nazionali di Sanremo Rock, che è una manifestazione parallela. Sì. Che ti permette non solo di conoscere la musica a livello italiano, ma di farti conoscere. Certo. Siamo arrivati 22esimi, mi sembra, in semifinale eravamo 94, ma c'erano quasi 10.000 gruppi. Certo, in tutta comunque Italia, un buon risultato. Quindi è stato un risultato mica bau bau. Ti credo. Dunque, la vostra musica, l'abbiamo ascoltata prima di avervi ospiti, è molto energica e grintosa. C'è un genere al quale fate riferimento in modo particolare? Come definite la vostra musica? Ma diciamo che il genere di riferimento è sempre quello del rock. Principalmente ci ispiriamo sempre alle band dell'epoca d'oro del rock, non so, degli anni 70, 80... come possono essere le Zeppelin, diciamo, l'ispirazione è sempre quella. Mi collego a questa tua In scivolata, no? Quali sono le band che più vi hanno influenzato, no? Senso, le Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, una in particolare, una, due? Ma le pietre miliari, sì, del rock, come possono essere i Dorsi, le Zeppelin, gli AC/DC anche. Personalmente mi sono ultimamente avvicinato un po' di più al rock alternativo io. Quindi cosa ascolti? Come gli Alter Bridge. Uh-huh. Anche mantenendo sempre dei classici come U2, quelli non possono mancare. No? Fausto invece? Ma io sono portato un po' più sul metal e sulla classica. Metallica? Sì, Metallica. Che ne pensi del nuovo disco? L'hai ascoltato? Death Magnetic? No, onestamente non l'ho ascoltato, sono curioso. Molto però. Speed. Ah, allora forse sono ritornati alle origini. Sì, sì, decisamente. No, io ascolto metal un po' da quello estremo, da quello più soft. E poi classica vado sempre dai mostri sacri, da Mozart, Bach e cose varie. C'è secondo te un collegamento fra la musica classica e la musica metal? Nel metal sì, molto, perché infatti dipende se si parla di power metal, anche di black. Si ispirano molti alla musica classica, soprattutto se si parla di chitarristi. Mm-hmm. Nel power metal infatti comunque c'è molta chitarra neoclassica. Certo, c'è ad esempio una bella cover di Malmsteen, Canon in Re, La canzone quella famosissima, insomma, su YouTube ci sono stati personaggi che hanno ottenuto davvero tantissime visualizzazioni, ed è proprio una musica, una canzone classica rifatta poi da tanti chitarristi in versione metal, e si adatta perfettamente, sì, insomma, sì, ci sta portando al punto di odiarla, perché ogni volta che prova almeno una volta la deve sapere. Gabriele, per quanto ti riguarda per quanto mi riguarda è un po' complicato, nel senso che c'è da fare anche uno sdoppiamento, perché trovandomi casualmente ogni tanto a scrivere i testi per il gruppo, io ascolto sia i cantautori grandi italiani, da Guccini a De André, solo per citare i due secondo me più grandi, ma anche a livello musicale invece io amo tantissimo il blues, il rock blues. Poco fa, fra i brani che sono passati, hai detto gli Aerosmith. Io adoro gli Aerosmith, come diceva Jimmy Page: vuoi ascoltare, vuoi imparare il rock, ascolta gli Aerosmith. Ti do ragione, effettivamente. Sono proprio la storia del rock. Ma passando per i chitarristi, anche chitarristi, va bene, non si può prescindere se suoni la chitarra rock dall'ascolto di Hendrix, deve essere pane quotidiano, ma passando anche per bluesmen un po' più attuali, che so, Bonamassa o lo stesso Mayer, ma a livello, io sono molto campanilista anche, mi piace ascoltare la musica italiana. Io penso che gli italiani abbiano una marcia in più quando suonano. C'è un gruppo recente, insomma, che ti senti consigliare agli ascoltatori? I Negrita, sì, mi piacciono tantissimo, hanno sono stati capaci di inventare un genere in Italia, non si sentiva questo blues, pop blues in Italia, e sono stati capaci di rinnovarsi, rimanendo sempre loro, la loro anima, i loro testi, insomma, mi piacciono, è un gruppo Negrita completo. Bene, Simone? Io, come dicevo, i ragazzi, adoro diversi gruppi che sono stati pietre miliari della nostra musica odierna. Sicuramente. Ma da bravo batterista. Da bravo batterista. suggerisci. Guarda, non ti nascondo che sono nato con il grande Ulrich dei Metallica. Anche se adesso non mi entusiasma più di tanto. Dato che ho conosciuto diversi altri batteristi, tra cui il mito, il grande Dave Weckl, però ahimè inarrivabile ora come ora. Comunque ciò che mi influenza sono molto gli Alter Bridge, ma anche i Negrita stessi, perché nella musica e nel rock che facciamo noi, mettere un po' di hard rock all'Alter Bridge è veramente difficile. Si cerca di tentare di portare delle innovazioni anche nella semplicità della nostra musica. Certo. Va bene, allora andiamo ad ascoltare un'altra canzone. I Nergal Rock Revolution questa sera presentano la loro musica. Un'altra bella canzone, si intitola A pugni col niente. Proprio quando dovevi sbagliare. Perché l'errore più grande è esitare, non mutarsi per non cadere. Anche noi Nergal Rock Revolution con A Pugni col Niente. A questo punto, ragazzi, vogliamo sapere, insomma, i testi di queste canzoni. Allora, intanto, chi è che scrive i testi delle canzoni? Naturalmente il filosofo. Vabbè, ma non li scrivo solo io, nel senso che li scrivo io per la maggior parte, però soprattutto ultimamente si sta sviluppando una collaborazione fra di noi. Stiamo un po' cambiando la domanda che facevi prima. Qual è la differenza fra quando avete iniziato e adesso, oltre ad essere cambiato il genere naturalmente? La maggiore consapevolezza ci porta a scrivere una canzone se abbiamo un'idea che porta avanti questa canzone. E questo ci porta a collaborare. Allora, magari il testo è scritto, però al cantante, a Fabio, sta stretto in una strofa e quindi si allarga, si taglia. Lui mi dice qua usiamo un sinonimo, insomma. Fabio, tutti gli altri lavoro collaborano, team, diciamo, gli altri squadra. Hanno un'idea, si vede tanto questa cosa in Una Serata Mondiale, che pur essendo un brano un che ascolteremo tra l'altro tra poco, è un brano un po' datato e magari il testo non è quello più filosofico che c'è fra i nostri, ma è molto un inno alla vita, molto. Ma in generale di cosa parlano? Parlano d'amore, di politica? Parlano della vita, quindi ti puoi trovare a parlare dell'amore, ti puoi trovare a parlare di quello che è intorno. I primi testi sono molto introspettivi, poi comunque parlano delle nostre esperienze di vita. Io ho un'idea, non so quale fosse Michelangelo, che diceva che l'opera d'arte, la statua, sta già nel blocco di marmo e tu la scolpisci e viene fuori statua. Cioè. Io faccio al contrario, un'esperienza di vita e la ricopro, così chiunque ci si può trovare. Cioè, a pugni col niente, poi quello insomma è l'obiettivo, no, di chi fa musica, quello di riuscire a comunicare qualcosa e condividerla e poi gli ascoltatori la fanno propria, no? La adattano alla propria esperienza, alla propria vita. Allora, sappiamo che avete partecipato a diversi contest e manifestazioni in giro per la Sicilia, anche mi avete detto di Sanremo, di cui abbiamo parlato, e volevo chiedervi appunto di parlarci di queste vostre esperienze. Qual è quella che vi ha particolarmente divertito, non so, qui in Sicilia o in altre parti d'Italia magari? Diciamo che quella che ci ha divertito di più è stata 2 anni fa, 2010, sì. È stata il 2010 a Bagheria. C'era un contest che si chiamava Rock in Bagheria. È stato bello per noi perché comunque l'abbiamo affrontata senza nessuna pretesa, senza nessun obiettivo, secondo fine di dover vincere o dimostrare chissà cosa. Siamo saliti sul palco solo esclusivamente per divertirci. E così è stato. Abbiamo fatto forse un po' i pagliacci, ma cioè, possiamo dire, cioè vogliamo sapere cosa avete combinato. Praticamente c'ero io 15 kg fa. La tematica doveva rappresentare con un girettino, il rock. Pancia di fuori, Ray-Ban di sera, bandana in testa. Girettino molto hip. Poi avevamo il batterista con l'eyeliner negli occhi e le pretelle. Le pretelle stile. Io ero il boss. Sì, tutto smanicato. Smanicato, ero brutto. Niente, siamo saliti sul palco, ti ripeto, solo per divertirci. Così è stato. E vi siete divertiti. Lo si vede anche. C'è anche qualche video su YouTube. Rock in Bari si chiama. Bene, bene. E invece, quanto secondo voi le esibizioni dal vivo possono aiutare una band emergente? Cioè, è importante stare in studio, produrre musica oppure avere un contatto con le persone? Una domanda un po' scontata. Questo alzo il ditino io perché è una cosa a cui tengo. Nel senso che adesso si vedono soprattutto chitarristi su YouTube essere dei mostri sacri, bravissimi, fare cover eccetera eccetera, ma secondo me tu dicevi registrare in studio e fare live, secondo me il musicista, ora io non mi sento, loro dicono un progressista, ma sicuramente no, il musicista si costruisce nel live, si costruisce nel registrare in studio, non si costruisce stando a casa. Cioè, certo, studiare a casa ti forma, ti fa diventare quello che sei, ma suonare davanti a un pubblico che ti fischia, suonare davanti a un pubblico che ti applaude, registrare quando il ragazzo dove registri è molto più bravo di te e ti dice cambiami l'ottava, fammi l'accordo di settima, fai l'altro rivolto e io ti trovi spaesato e ti senti una nullità, ma lo devi fare perché certo, quello sarà il tuo mestiere. Sempre che c'è sempre qualcuno più bravo di te, aiuta a crescere, così certo. Diventi così, quindi crei. Entrambe le situazioni sono comunque formative, sono essenziali entrambe. Bene. Ma a Fausto non serve perché lui lui è Speedy Fausto, fantastico. Perché lo invidiano Speedy Fausto? Perché Speedy Fausto? Per gli assoli, perché ha questa derivazione metal. lo porta a esprimere le sue emozioni negli assoli, su per giù come parla, cioè parla per come suona, veloce, no. Uh-huh. Quindi ho capito, parlo suono. Allora, come ben sapete, ci sono un sacco di band emergenti su internet, ovunque, che come voi, insomma, stanno cercando di farsi conoscere per trasmettere i loro messaggi e la loro musica. Come sono i rapporti con gli altri gruppi del circondario? C'è collaborazione tra band oppure è una specie di gara chi arriva per primo, arriva più in alto? Ma diciamo che abbiamo notato purtroppo che c'è molta competizione. Noi non siamo di questo avviso, sinceramente. Quando ci capita di confrontarci con altre band, con altri artisti, cerchiamo di imparare l'uno dall'altro, cerchiamo di andare a bere assieme di divertirci insieme. Non capita con tutti, però sì, spesso si nota sta cosa, che comunque è sempre un po' una competizione. Ma si dice spesso che la competizione aiuta a crescere, a migliorarsi, è così o no? Credo di sì, solo che forse bisogna contestualizzare, perché se ci si trova in un contesto in cui è forse la cosa migliore può diventare distruttiva più che costruttiva, scambiare delle opinioni, delle considerazioni, allora... Secondo me è sbagliato comunque la competizione della musica, cioè non è uno sport, cioè secondo me è giusto comunque ognuno deve suonare sia per sé sia per gli altri e aiutarci tra... perché comunque già in Italia è molto difficile. Quindi se ci diamo una mano tutti, forse qualcosa si può fare. Certo, ma tornando al discorso del fatto che ci sono tante band, no, che come voi stanno cercando di farsi conoscere, di riuscire ad arrivare a qualcosa, come pensate voi di riuscire con la vostra musica? Cioè, vi siete mai posti il problema di dire: noi facciamo la nostra musica piace a determinate persone o può non piacere a certe persone, a noi piace sapere che queste persone piace, oppure a noi non ce ne frega niente se quelle persone piace? Diciamo, questo è un pensiero, un chiodo fisso che abbiamo, perché anche nella composizione stessa cerchiamo sempre di porci nei panni di chi ci ascolta, e la prova è anche la canzone che manderete in onda dopo, è stata proprio composta pensando all'ascoltatore, no? Se non ricordo male. Non so, pensa a November Rain dei Guns N' Roses, dura 9 minuti nel CD, ma quando l'hanno composta durava 18 minuti, quindi però questa stessa canzone è l'esempio un po' di come si può condividere quello che ti piace fare con quello che vuoi fare arrivare, perché è inutile fare solo cose che mi piacciono fare se non arrivano alle persone che tu pensi, certo, possano ascoltarlo. Quindi noi conciliamo. Quindi trovare una via di mezzo, insomma. Anche perché se non ti piace non lo puoi fare, è inutile. Diventi una macchina, allora faccio Gigi D'Alessio, con tutto il rispetto a lui. Certo, è bello ricevere un feedback dall'altra parte, però. Certo. Savio aggiunge: competizione o meno, io sottolineerei il concetto di umiltà. Sì, che quella è sempre alla base del nostro status di gruppo. Non ci siamo mai montati la testa, anche perché non avremmo motivo. ma anche se ne avessimo la motivazione, penso che non lo faremmo, perché diciamo teniamo sempre conto delle nostre origini, delle nostre radici, e quindi sappiamo cosa significa quando poi se arriva a un certo livello, sappiamo cosa c'è tutto, cosa c'è dietro. Cosa c'è dietro? Bene, adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone dei Nergal, questa sera ospiti di Rock Revolution, la musica emergente da Palermo, con Una serata mondiale. Vacanza, bastano una birra e due risate al pub. complimenti a Nergal, questa sera ospiti di Rock Revolution. Abbiamo visto anche il video della canzone che abbiamo ascoltato, video molto particolare, quindi è un flash di un ragazzo, no, che spera nel suo inconscio di poter abbordare sta ragazza e poi invece alla fine non è niente, non c'è niente di vero, no? Alla fine lei cercava solamente un accendino. Solo un accendino. Era fatto con un film in testa. Altri messaggi per i Nergal da parte di Dora, dice baci dalle vostre Dora. Fan Dora, Enza, Chiara e Simona. Simone sei il migliore. Oh Simone, hai visto che bei complimenti? Che non mi vede. No no, vai in webcam anche tu. Allora, un tempo era il chitarrista quello bello del gruppo, noi ci abbiamo il batterista. Il batterista, ma va bene così. Sarà insomma il fascino dei capelli. Infatti, no, controtendenza anche in questo. Allora, state lavorando attualmente su nuove canzoni. Parlavamo prima, mentre ascoltavamo la canzone, della possibilità, insomma, del piacere che avrei avuto nel sentirli suonare in versione acustica. Mi hanno promesso ufficialmente che appena avranno qualcosa di nuovo verranno dotati di strumenti per farci sentire qualcosa. State già lavorando a qualcosa? Possiamo già aspettarvi, cioè programmare, oppure ancora, insomma, state... No, già ci sono, sono diversi progetti in cantiere. Sono due canzoni che sono quasi complete. In qualcuna manca solo il testo, perché a volte magari nasce prima il testo e poi la canzone, a volte nasce prima la canzone e poi il testo. In questo caso siamo riusciti, fino adesso abbiamo una canzone che comprende già un testo e una musica, però è un po', come dicevamo prima, da riadattare con la voce. Qualche altro brano pronto c'è? E sono soltanto da registrare, ma per quello dobbiamo fare prima cassa. Certo, parlando di cassa, parliamo di locali, no? Nella zona di Palermo, eccetera, eccetera. Come vi trovate? Cioè, pensate che la situazione sia florida oppure siamo nella cacca? Assolutamente la seconda ipotesi. Dormi amore, la situazione non è buona. No, in realtà con i locali in cui abbiamo suonato spesso, eccetera, con cui si è creato un rapporto, noi in realtà non abbiamo mai avuto grandi problemi con i locali, forse perché siamo come ci vedi, forse ecco. Perché non abbiamo grandi pretese anche. Non abbiamo mai avuto delle pretese eccessive, giusto, insomma. Certo. Perché comunque suonare ti occupa, non è... non è una cosa che puoi fare, ti chiamo, domani vieni a suonare, certo, okay, io lo devo preparare. Insomma, si dovrebbe. La cosa. Ci è capitato in alcuni posti, per esempio ad Agrigento e a Giardinello, ma anche a Partinico, insomma, più che altro nella provincia di Palermo, di trovare dei locali che la pensavano come noi sulla musica, cioè vieni a suonare intanto se mi piace come suoni, mm-hmm, e non solo perché mi porti la gente. E in secondo luogo io ti chiamo perché io do un servizio alla gente. Certo, quindi giusto. Sono io che do un servizio alla gente, non sei tu che mi porti la gente. Se passasse questo messaggio fra tutti i locali, ad esempio adesso c'è un localino a Monreale, sta iniziando a fare anche questa cosa. Speriamo che vada avanti. Ciao Filippo. Non dico il nome. Non lo salutiamo. Certo, se la burocrazia venisse incontro anche ai proprietari dei locali, sappiamo, certo, che purtroppo ci sono anche tante difficoltà a cui devono far fronte i proprietari dei locali. Questi vengono strumentalizzati proprio. Tu riesci a pagare tutti i vari servizi di intrattenimento come Sky, eccetera, eccetera. Però i gruppi è come se la loro musica fosse dovuta. Cioè, ci facessero un favore. Sono capitate pure diversi eventi spiacevoli di gruppi che magari una determinata serata intrasettimanale viene poca gente e loro ti danno il contentino come se noi fossimo certo, come se andassimo lì a mendicare i soldi, sì, e poi alla fine l'ultima cosa che... Certo, non c'è questa mentalità, mentre come diceva Gabriele ci sono tanti altri gruppi che veramente, con tanti altri locali e persone che veramente credono nella musica e credono nella musica. Beh, meno male, insomma, meno male. Facciamo un appello, siamo in radio. Certo, fai pure. Anche agli altri gruppi, cioè non agli altri gruppi che suonano da un po' di tempo, ma ai gruppi che iniziano, che suonano da poco, ok, sì, cercate i posti dove suonare, ma piuttosto che farvi pagare poco, dite andateci gratis, insomma pretendete, perché altrimenti non venite strumentalizzati e fate un po' male anche a chi suona da un po' più di tempo, certo, perché certo, se va il gruppo e prende un po' di meno. Capiamo che la situazione è quella che è, quindi non si possono avere le pretese di qualche annetto fa. cosa comunque. Certo, ma è una situazione comunque, è una cosa che riguarda anche i DJ, noi DJ, che ci sono molti ragazzi che alle prime armi che si accontentano di andare a suonare solo per il fatto di poter suonare davanti a un pubblico. E questa cosa è deleteria per chi invece lo fa per mestiere e giustamente dovrebbe essere corrisposto per il lavoro che offre, il servizio. Dovrebbero che offre. Pensarci anche su anche un po' i gestori, credo, perché certo, comunque... Certo. Non per vantarsi, ma quando c'è un po' di esperienza dietro, diciamo, la qualità del servizio è anche diversa. Quindi, certo, certo. Se certo. ti accontenti tu del gestore locale. Fausto porta tre pizze tutte in una volta. E nell'altro braccio io. Arriva un altro messaggio per voi ragazzi da Lilla Bonfante, dice: band fantastico, ho avuto il piacere di ascoltarli, adoro il batterista, un bacio per tutta la band. Simone, stasera stai facendo furore. Wow. Allora ragazzi, adesso andiamo ad ascoltare l'ultima grazie canzone di questa sera e poi ci salutiamo. Si intitola I Will See You On The Road. Quando ci divertivamo, di tanto in tanto sognavamo di cavalcare ruota a ruota, dritti verso una meta ignota. Immaginavo una vita insieme a te, ma una realtà che più non perché il destino che ci ha verso ha preso i sogni e li ha buttati nel cesso. Più mi batte il cuore, ma so anche che prima o poi ci incontreremo per strada noi e insieme ai nostri angeli ripartiremo proprio da lì. Nerga la Rock Revolution, questo venerdì sera vi facciamo ascoltare la musica emergente, in questo caso specifico da Palermo, questa band davvero molto intervistante che vi consigliamo assolutamente di ascoltare, di seguire su internet, li trovate su Facebook nel profilo Nergal Rock oppure su MySpace, myspace.com/nergalrock. Arrivano altri messaggi per voi. Daniele, ho avuto il piacere di ascoltarvi dal vivo e sono davvero grandi, continuate così. Quindi tanti complimenti. Grazie. Per voi questa sera è piacevole ricevere i complimenti, no? Bello, sempre bello. Sempre bello. Adesso vediamo vediamo se ne arrivano di altri, perché questa sera siete venuti accompagnati da delle signore, no? Allora invitiamo queste signore a dare un commento, no? Abbiamo questa sera con noi, tu ti chiami? Graziella, poi c'è? Federica. Gloria. Maria Grazia. Allora ragazze, un commento a caldo ognuna di voi riguardo i Nergal. Vai. Guarda come si passa il velo, cos'è l'asso di bastoni quando si gioca a cucù? Scappano. No, è un piacere seguirli nelle avventure, perché ci divertiamo. Volete venire a favore di telecamera? No, grazie, questo rinunciamo volentieri a questo. Tanto se siamo riusciti a farle parlare. È un piacere seguirli in giro, sia perché ci divertiamo, sia perché ne combinano sempre una, quindi è un piacere. Sì. Li paghiamo per questo. Sì, sono anche molto bravi. Qualche altro commento? No, perfetto, va bene. Diciamo che ci supportano e ci sopportano soprattutto. Va bene ragazzi, è stato un piacere avervi a Rock Revolution, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo, provate di nuovo a Sanremo perché stavolta avete la marcia in più. Lo faremo senz'altro. Volete salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? Sì. Salutiamo Saverio. Salutare Saverio. Ovviamente, ci uniamo a ciao Tony. E quindi un ciao Tony! Ciao Tony! Va bene ragazzi, ancora grazie e tanti auguri per il vostro futuro musicale e non solo. Grazie di averci invitato. Ciao e grazie. Ciao. Ciao a tutti. Bene, adesso ci trasferiamo tutti quanti virtualmente in uno stadio per andare a godere due canzoni eseguite in versione live per la nostra rubrica Rock Revolution Live. Rock Revolution Live. Vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Questo era Rock Revolution Live. Vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Abbiamo ascoltato gli AC/DC con Shoot to Thrill, un brano tratto dal CD Live Special Collection Edition, il settimo singolo estratto dal loro ultimo album di maggior successo. Insomma, parliamo di Back in Black. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film 2010 Iron Man 2 ed è tra l'altro la colonna sonora principale del trailer del film sopracitato. Il brano tra l'altro è stato anche la theme song di WrestleMania numero 25, pensate un po'. Poi abbiamo ascoltato i Queen, versione dal vivo Live at Wembley 1986, era One Vision. Una curiosità, parliamo di voci distorte. La canzone contiene misteriose e distorte voci iniziali, soprattutto nelle versioni album and extended, che contengono anche la parte di batteria di Roger Taylor ad inizio del brano. Queste sono invece molto più orecchiabili nella single version. Poi tra l'altro, sempre di One Vision, se mettete il disco al contrario, ormai è difficile perché con gli MP3, a meno che non usiate un software di editing audio, non potete farlo. Però una volta, quando c'erano ancora i vinili, si poteva, ecco, manualmente mettere il disco al contrario, e alcuni sostengono che ci siano dei messaggi subliminari. Non so se avete un giradischi a casa, fate la prova, anche il disco di Queen. Proprio riguardo questi messaggi nascosti, la citazione biblica God Works in Mysterious Way ad inizio brano è udibile se il brano viene ascoltato a velocità accelerata. Nonostante un fan club ufficiale sostenne che fosse stata di Brian May la voce storpiata, venne chiaramente mostrato sia dal documentario Magic Years che dal DVD Greatest Hits Video Hits 2 come Freddie canti il testo durante la sessione di registrazione, quindi sfatata questa cosa. Su entrambi i documentari il testo completo recita God works in mysterious ways and hey people all around the world I look forward to those glorious days once again. Fateci caso, ascoltatela e poi mi sapete dire. Adesso arrivano i due brani in sequenza. grande rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. Take me for a ride, I'm the one you push aside, but it's coming back to you, yeah, it's coming back to you. Hey! Run to the sound, take it back and double down, 'cause it's coming back to you, yeah, it's coming back to you. Energia allo stato puro con gli Airborne, con Stand Up for Rock and Roll. Loro sono un gruppo hard and heavy metal australiano nato nel 2003. Questa è la canzone di maggior successo. Poi abbiamo ascoltato The Offspring con Slim Pickens Does the Right Things and Rise the Bomb to Hell. Un titolo lunghissimo, una canzone del 2012, tratta dal loro ultimo album Days Go By, nono album degli Offspring. Adesso ci trasferiamo tutti quanti al cinema. Volevo cogliere l'occasione per ricordarvi un nuovo appuntamento che vedrà protagonisti due nostri colleghi. Parliamo di Jerry e Giuseppe Romano, che parleranno con una nuova rubrica di cinema, di novità musicali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 su CRMP Radio. Quindi potrete assieme a loro scoprire i film al cinema, le novità più interessanti da andare a guardare al cinema. Quindi semplicemente insieme ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 su CRMP Radio con Jerry e Giuseppe Romano. Assolutamente non mancate questo appuntamento. Adesso andiamo tutti virtualmente al cinema per Rock Revolution Soundtrack. Rock Revolution Soundtrack, dal cinema alla radio, le più belle colonne sonore rock di tutti i tempi. Mettiti comodo e goditi lo spettacolo. Mio padre diceva sempre: se una giornata comincia male, poi la strada è tutta in salita. In salita? No, no, si dice tutta in discesa. Ma la gente punta in alto, non vuole stare in basso, quindi è tutta in salita. È più facile andare in discesa. Quel detto di tuo padre non esiste. Lei è in una lista no fly. Nostro figlio nasce questo venerdì. Come pensi di tornare? Ehi, ti va di venire con noi? Crisi scongiurata, sono in macchina. Saluta. Fammici parlare. C'è un parrucchiere dalle tue parti? Ho una permanente da sballo che ha bisogno di manutenzione. Ecco come sono messo. Staremo insieme per qualche giorno, non ci farebbe male conoscerci meglio. Colore preferito? A che età hai perso la verginità? Io a 9 anni. Era uno schianto. Sheila Foruncolo. Facciamo pit stop. Sto chiudendo, ho prenotato da McDonald's. Lei ha prenotato da McDonald's? È una buona mossa, è sempre pieno il mercoledì sera. Disprezzo la tua persona a livello neuronale. Ok, me l'hanno già detto e ci sto lavorando. Turning, and the temperatures are rising. I see the factories are burning.

Questa era Rock Revolution Soundtrack, l'emozione di assistere a due film molto particolari questa sera, devo dire la verità. Li ho visti, molto carini. Il primo era Parto col Folle, con la colonna sonora dei Wolf Mother, New Moon Rising del 2009. Canzone australiana, della band australiana, scusate, Wolf Mother. Loro sono un gruppo hard rock stoner di Sydney e il loro sound si rifà molto ai grandi gruppi degli anni 60, parliamo di Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple e così via. Loro iniziarono la loro carriera nel 2003, ma il loro nome comincia a circolare in Australia a partire dal 2004 con la pubblicazione dell'omonimo EP Wolf Mother, per appunto mai uscito in Italia, purtroppo. Attualmente sono al loro terzo disco, Wolf Mother Album, che è stato votato come l'ottavo miglior album di sempre in Australia. Pensate un po'. Secondo film di questa settimana di Rock Revolution Soundtrack era Libera Uscita, un altro film molto carino, molto spiritoso, con la colonna sonora dei No Satisfaction, e la canzone si intitola Black Mountain. No, scusate, il contrario. I Black Mountain e la canzone No Satisfaction. Loro sono un gruppo canadese di rock psichedelico costituitosi nel 2004 a Vancouver, in British Columbia. La band riprende con uno sguardo al presente le sonorità psichedeliche sperimentali di gruppi come Pink Floyd, Velvet Underground, l'hard blues degli anni 60, che richiamò band come la Led Zeppelin, Black Sabbath e anche loro, insomma un po' come i Wolf Mother. Questa canzone è una tra le canzoni più belle della band, secondo molte riviste di musica. Adesso ci trasferiamo tutti quanti in Italia per andare a gustare di due canzoni tutte italiane, con Italians Do Rock Better. Rock Revolution presenta Italians Do Rock Better, due successi rock mixati targati Italia. Scusa, non ho capito, vuoi ripetere che cosa avevi da fare? Di tanto importante da non potere proprio rimandare. Non mi dire, ti prego, non mi dire che dovevi solo studiare. Che ti sembra un buon motivo questo per non farti neanche sentire? Sì, ti ho capito, ti interessa più la scuola. Cosa me ne frega del vestito che hai, mi piaci come sei. Non mi devi trattare come tutti quei maschietti che ogni tanto tu fai. Chissà che cosa sa, che cosa pagherei per poter vedere dentro quella testa cos'hai. Se mi stai prendendo in giro, guarda che ti giuro non ti perdonerei. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. due successi rock mixati targati Italia. Faccio a botte coi miei sogni, coi miei desideri, con l'inferno e il paradiso qui nei miei pensieri. La musica italiana con Italia's Do Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata senza interruzioni. Abbiamo ascoltato i Vallanzasca con Non l'hai mica capito, bellissima cover, singolo di Vasco Rossi pubblicato nel 1980 dalla Targa, con due brani tratti dall'album Colpa d'Alfredo, non so se ve lo ricordate, riproposto da diverse band successivamente, tra cui Vallanzasca che abbiamo appena ascoltato, che riescono ad interpretarlo secondo il loro stile, ovvero uno stile molto ska. Seconda canzone di Italians Do Rock Better erano i Litfiba con Sole Nero, un singolo dei Litfiba pubblicato il 23 aprile del 2010, data in cui poi loro si sono praticamente riuniti, parliamo di Grigore Enzulli e di Piero Pelù. Adesso diamo spazio al consueto appuntamento dedicato alle notizie più strane dal web, nel caso specifico con gli amici Francis e Pablo per News of the Week. Rock Revolution News of the Week. Oh, eccoci qua, buonasera cari amici. Ciao Filippo, ciao a tutti. Sembra un gondoliere Pablo questa sera con questa maglietta, vero? Meno male che non ti sei sbilanciato. Si aspettava che dicessi qualcosa di diverso, tipo un frocio francese. Vabbè, niente contro, insomma, questa storia del frocio francese ricorda un anno fa, del carnevale. Esatto, quando ti vestì, ma era questa uguale o era rossa? No, era rossa. Tu hai tutto rossa. un kit da carnevale. No, da quell'altra cosa. Allora, anche questa settimana, scusate, stavo morendo. No, non morire in diretta, è una tosse tremenda, guarda, sta settimana veramente. Allora, anche quest'oggi ci avete portato. Ma perché sei col giubbotto? Hai freddo? Sì, abbastanza, c'è il freddo. c'è freddo, ah, tempo brutto, neve, grandi. Ma la neve non c'è, pioggia, veramente. No? No, no, ancora non è nevicata. Bassa quota c'è, Filippo. Ah, sì? Sì, sì. Ho capito, ho capito. Sentite, allora, volevo intanto chiedere, prima di iniziare la rubrica, no? Visto che abbiamo visto in telecamera il nostro Francis che ti toccava il petto, i capezzoli, no? Cioè, vedo sì, che si sta instaurando un feeling molto più intimo fra di voi. No, no, è vizioso. Sì, diciamo che a Paolo piace molto l'uccello Padulo. No, no, ti sbagli. Okay. Hai qualcosa da dire, Paolo? In tua... No, si sbaglia, non ho alcuna passione per gli uccelli. Perfetto, va bene. Invece a Francis piacciono, infatti fa molte fotografie agli uccelli. Lui è proprio un appassionato di uccelli, vero? Sì, ma il Padulo non mi piace. Non ti piace? Ok. Vabbè, allora di cosa parliamo questa sera? Niente, parliamo di una tragica notizia che tu immagini. Come tragica? Dobbiamo... Senti, dimmi una cosa. Tu mangi broccoli? Sì, ogni tanto mi capita. Fagioli? Fagioli, cereali, certo. Ma bravo. Però devi stare attento, caro Filippo, perché un americano di 47 anni è morto a causa dei gas emanati la notte durante il sonno, appunto, causati da broccoli e fagioli, appunto. Ah, cioè praticamente cosa è successo, no? Questo qui ha mangiato dei... Si è strafogato di fagioli e broccoli una sera, tornato da lavoro, prima di andare a letto. Ha pensato bene di farsi questa... Scorpacciata. Ma purtroppo, siccome la stanza dove dormiva era molto piccola, questi gas lo hanno praticamente ucciso. Mamma mia, cioè è morto con praticamente i peti, no? Cioè i propri peti. Sì, è una scureggia proprio. Metano, è metano. Sì, sì, metano proprio. Ah, ecco perché si chiama metano. Petano. Non hanno capito. Questa è l'esplosione. Va bene, invece, caro Pablo, di cosa parliamo con te? Una bella notizia allegra, per favore, almeno questa settimana. No, vi parlo di profumi un po' più gradevoli. Oh, per fortuna, bene. Si parla di tre studenti intraprendenti approfittavano delle lezioni di botanica per coltivare erba. Ah, qua. Erba di che tipo? Cipollina? No, erba marijuana. Ah, marijuana, ok. Sì, dell'ottima marijuana. Aromatica. Di razze olandesi particolari, molto saporite. Sono stati espulsi per aver piantato e curato diverse piante di marijuana nell'orto della scuola. No, incredibile. Scuola, sì, sì. I tre ragazzi, durante le lezioni di botanica, approfittando della scarsa conoscenza in materia della professoressa, che credeva fosse una spezia particolare, tranquillamente loro si dedicavano alla coltivazione di questa marijuana. Hai capito? La studiavi la botanica? No, no, purtroppo non, no, fra le materie non rientrava questo piano di studi. Però insomma, non sempre nei film, si sente. In America, nei film, si vede quando aprono le rane, no? Fanno gli esperimenti di. Hanno le scuole fighe, noi invece. Noi invece siamo così, vabbè. Pazienza, insomma. Quindi, cosa è successo? Che questi qui sono stati scoperti a coltivare una droga, una sostanza illecita, a scuola addirittura. Senza che. Infatti, andavano a scuola contentissimi. Immagino. Mio figlio non vede l'ora di andare a scuola. Vabbè. E invece, Francis, di cos'altro parliamo adesso? Altre notizie curiose dal web? Sì, capita proprio in Italia, a Torino. Bene. Sì, il caso di un matrimonio finito male. Mamma mia. Sì, a causa del fatto che la neo sposa, rientrando a casa, ha trovato proprio letto il marito con la sorella gemella. Ah. Inutilmente l'uomo ha cercato di giustificarsi dicendo: ma non me ne sono accorto, pensavo che fossi tu. Ma è durata poco. Cos'è? La donna che piangeva. sembrava Pablo. No, no. Un coniglio, sai, un coniglio. Con un coniglio. Ah, un coniglio. Quindi insomma è stata beccata, tentativo fallito di scusarsi, perché alla fine, nonostante, eppure sai, io ho sentito, insomma, spesso si legge nelle notiziari o nei telegiornali, si ascolta di notizie di gemelli che si scambiano, no, anche a scuola oppure in altri posti per comodità. È risaputo che i gemelli adottino questa strategia quando più sembra Alberto Angela. Vabbè. E invece Pablo, con te con cosa concludiamo questa sera? Di cosa parliamo? Per favore, una notizia allegra. No, insomma, allegra. Mi è sembrata triste quella del matrimonio. Ma questa non è proprio allegra, però insomma curiosa, diciamo. Si parla di immagini. Metti per favore il microfono vicino alla bocca. Sì, quello sì. Nero che ha in mano. Sì. Ha paura, di trauma. No, no, assolutamente. Ti stai sbagliando. Ok, allora di cosa parliamo? Allora, parliamo di sesso, dai. Ah, bene. Sesso tra i fornelli. Oh, bene. Praticamente a volte un argomento bollente, quindi. Sì, la trasgressione spinge a far sesso in posti insoliti, in posti particolari. Come questa coppia di italiani che si spingono a far sesso davanti ai fornelli. Mentre lui cucina una frittata, lei dedita in ginocchio. Vabbè, non entriamo nei particolari. Sicuramente non è la salsiccia al forno, ma le frustate. L'uomo forse è distratto, forse assopito, forse proprio preso dalla situazione. Assopito, Non mi sono sbagliato il tuo caso. Come faceva a dormire mentre faceva la frittata? E no, no, facendo. Vabbè, comunque, no, vabbè, ha sbagliato un attimo il verbo. Stavo dicendo una parola del problema e mi sono un po'. Ti sei corretto. Beh. Comunque, coinvolto nell'azione, sbaglia la mira della frittata. Perché faceva rivoltare la frittata, no? Per girare il lato. Sbaglia mira e la frittata rovinosamente cade nella schiena della donna. Aia. Ma la cosa tragica è che la donna, colpita da una azione involontaria, dal caldo bollente della frittata, dà un morso violento al membro dell'uomo, al quale causa delle ferite. Quindi poi entrambi vanno in ospedale. Lei con ustioni di primo e secondo grado e lui con una brutta ferita al pene. Hai capito, ma roba da matti, vera? Quindi Paolo, stai attento quando vai in cucina con la tua ragazza, perché insomma, soprattutto non fare frittate. No, ragazzi, sì, sono con la frittata. State attenti, sì, va bene, la perversione, ma fino a un certo punto. Evitare le fritture. La cucina è pericolosa. Il rapporto, ce l'abbiamo una base, non so, tipo di ambiente, tipo quark. Paolo voleva proprio dare questo consiglio, sai, i messaggi quelli di informazione che vengono dati, non so, dal ministero, no? Sul esempio, sul evitare di bere quando si guida. C'abbiamo qualcosa per fargli fare questo messaggio, no? Perché ci tengo. Perché sull'acqua. No, è importante, è un messaggio importante che Paolo vuole dare a tutti gli ascoltatori, un messaggio di prudenza. Vediamo se abbiamo qualcosa. Quindi comunque Pablo Pensiero dobbiamo aprire una nuova rubrica questa settimana. Allora tu preparati, Pablo, perché devi mandare un messaggio forte, concreto agli ascoltatori per evitare di incorrere in situazioni incresciose come quella che abbiamo sentito adesso. Allora, sei pronto? Sì, via. Perfetto. Ragazzi, sì, la trasgressione ci fa andare oltre, a volte in posti veramente caldi, veramente trasgressivi. Ma state attenti ai fornelli. Usateli spenti. E come di usare se sono spenti? Va bene. Ma usateli in campo sessuale, ma spenti. Va bene. Allora, questo io è il messaggio. Un applauso. Applauso. Complimenti. Un messaggio importante. Cari amici, grazie di essere stati con noi anche questa sera. Grazie a te. Alla prossima settimana. Ciao. Vedo ciao particolarmente entusiasti questa sera, proprio un'energia sprizza tutti i pori. Scusa, le altre volte ti sembravamo rincoglioniti. No, però. alla prossima. Ciao. Rimanete con me, salutiamo assieme. D'accordo. Bene, la puntata è finita, cari amici. Appuntamento la prossima settimana con tutti noi, insomma, con Simone, con Ida, con Francis, Pablo e ovviamente voi che ci seguite dalle 21 a mezzanotte su CRMP Radio. Per vivere assieme a noi 3 ore di rock and roll e per conoscere insomma le novità musicali ed emergenti della nostra bella Italia, ma non solo, questa sera abbiamo sentito anche un artista dall'Argentina. Quindi Rock Revolution ogni venerdì sera dalle 21 a mezzanotte su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Durante la settimana, se volete, potete anche scaricare la nostra puntata dal sito rockrevolution.it. Grazie a tutti per essere stati con noi, un buon weekend, una buona settimana e alla prossima da Filippo Brancato. Bye bye! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Radio.